9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, non manco di ricordarvelo, avremmo voluto togliere l'intervento di Angelo dalla provincia di Bergamo, dalla nostra sigla, insomma già qualche tempo fa. Siamo al 44esimo giorno di ingovernabilità e ancora non è successo niente. Come sapete, l'incontro tra Bersani e Berlusconi ieri è stato tutt'altro che decisivo, anzi Enrico Letta ha detto siamo solo all'inizio, al 44esimo giorno di ingovernabilità. Di cosa parleremo oggi? Parleremo del decreto per i pagamenti alla pubblica amministrazione, della pubblica amministrazione alle imprese. Insomma, il Sole 24 Ore oggi, ve lo dico francamente, viene quasi da ridere, ci ricorda che tra decreti, contratti, certificazioni, comunicazioni, leggi regionali, per attuare questo decreto ci vorranno 36 provvedimenti, numero 36. In effetti Confindustria denuncia un procedimento un po' farraginoso. Vedremo che cosa succederà, se sarà modificato in Parlamento. Parleremo di questo e parleremo anche dei comuni che sono un po' arrabbiati, un po' infastiditi, perché dicono quelli che hanno i conti in ordine e che hanno pagato i loro debiti e dicono, insomma, qua vorremmo sforare anche noi il patto di stabilità un pochetto per fare qualche investimento, per insomma distribuire un po' di soldi, allentare il disagio sociale e delle imprese. Insomma, e questo decreto nei nostri confronti è discriminatorio. Su questo arriveremo tra poco, su questo voglio i vostri interventi. Potete scrivere a me su Twitter Simone Spetia oppure telefonarci all'800 24 00 24. Ma in apertura andiamo invece alla sentenza di ieri della Corte Costituzionale, che dopo il ricorso alla Procura di Taranto sul decreto Salva Ilva ha deciso di invece dare il via libera a questo decreto. Insomma, non ci sono profili di incostituzionalità. Corrado Clini, Ministro dell'Ambiente, buongiorno. Buongiorno. Beh, immagino una certa soddisfazione. No, direi di no, direi che non è una questione di soddisfazione. Abbiamo un impegno, l'abbiamo preso con la legge, l'abbiamo preso prima con l'autorizzazione integrata ambientale che ho firmato il 26 ottobre. Avevo detto, quando si erano aperte le contestazioni alla legge da parte della magistratura di Taranto, che c'era il rischio che si fermasse il processo di risanamento, che si bloccasse, anche perché evidentemente c'era la possibilità che l'impresa stessa rinunciasse alla fine, dopo che aveva accettato tutte le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. E ora dobbiamo recuperare il tempo che, non voglio dire abbiamo perso, ma che comunque avrebbe potuto essere utilmente speso per avviare il programma di risanamento, che comunque è partito, nel senso che l'azienda ha cominciato a fare le cose che doveva fare. Adesso non ci sono più scuse, insomma, per nessuno, nel senso che l'azienda deve correre, le amministrazioni locali devono essere impegnate sul pezzo, così come il Ministero dell'Ambiente. Non credo che siano più ammissibili neppure quei tentativi che abbiamo visto di balletto di responsabilità o di competenze, che è un classico della nostra esperienza amministrativa. Io mi auguro che tutti capiscano che bisogna andare velocemente, la strada è segnata, la Corte Costituzionale ha detto che quella è la strada costituzionalmente giusta, io posso aggiungere che è giusta dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista industriale. Ministro, il 14 di aprile a Taranto si svolgerà questo referendum, che è chiaramente un referendum consultivo tra la popolazione della città, per decidere di fatto se tenere aperta l'Ilva. Nel caso si raggiungesse il quorum e prevalessero i sì alla chiusura dell'Ilva, questo può cambiare qualcosa secondo lei? Guardi, io credo che opportunamente la Corte Costituzionale abbia preso la sua decisione prima, perché sostanzialmente noi abbiamo un tema che riguarda la certezza del diritto nel nostro Paese. Ora, il lavoro che abbiamo fatto, io e i miei collaboratori abbiamo fatto insieme con la Regione Puglia, con le autorità locali, il lavoro, per niente facile, ha portato a stabilire un punto fermo. Il programma di risanamento di quello stabilimento, per rispettare le leggi italiane e per rispettare le direttive europee. Per cui a questo punto l'azienda sa cosa deve fare e lo sa in relazione alle leggi che deve rispettare. Io mi auguro che questo punto fermo venga considerato dai cittadini di Taranto che andranno a votare per il referendum. Nel caso che il referendum desse un'indicazione circa la chiusura di questo stabilimento, tutti devono sapere che questo aprirebbe probabilmente una fase ulteriore di incertezza, soltanto per l'azienda di Taranto, ma per tutti quelli che vogliono investire nel nostro paese. Per cui, ancora una volta, la questione di Taranto non è una questione locale. Io credo che debba prevalere il senso della responsabilità e l'etica della responsabilità da parte di tutti. Però, come dire, se, scusi se ritorno e ribadisco la domanda, non vi sposterà di un millimetro nel caso il referendum, al di là, come dire, dal punto di vista dell'attuazione della legge, del rispetto della legge, certamente no. E nemmeno nelle decisioni di governo, immagino. No, perché sostanzialmente ci troveremmo di fronte, nel caso appunto che decidessero a maggioranza che per in qualche modo la chiusura dell'azienda, perché poi anche il quesito del referendum non è così chiaro, ma in ogni caso avrebbe appunto l'indicazione di un referendum consultivo che dà un'indicazione circa l'accettabilità sociale o meno di un impianto industriale. Ora, questo è legittimo assolutamente, nel senso che è legittimo che la comunità locale si esprima in questo modo, però la comunità locale poi è rappresentata da un'amministrazione comunale, a sua volta da un'amministrazione provinciale e da un'amministrazione regionale, le quali hanno le competenze per decidere, e le decisioni che hanno prese sono assolutamente coerenti con quelle che sono riportate all'interno dell'autorizzazione ambientale e della legge poi. Cioè, sostanzialmente, qui è che ognuno si assuma la sua responsabilità. Ora, se l'amministrazione comunale di Taranto, la provincia di Taranto, la regione Puglia volessero avviare una procedura per revocare le autorizzazioni che sono state concesse, ripeto, l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale che io ho firmato il 26 ottobre, è il risultato di un lavoro congiunto con le amministrazioni, a quel punto si apre uno scenario difficile sicuramente, anche perché da un punto di vista legale è abbastanza discutibile che un referendum consultivo possa portare a queste decisioni, ma se le amministrazioni locali dovessero assumere decisioni di questo tipo, poi vedremo di fronte a quale nuovo scenario ci troviamo. Io penso che questo avrebbe degli effetti non solo negativi a livello della città di Taranto, perché se loro volessero ritirare il loro consenso alle autorizzazioni, questo vorrebbe dire che si blocca il processo di risanamento, questo vuol dire che i problemi ambientali che stiamo affrontando non verranno affrontati. Dobbiamo sapere esattamente di cosa stiamo parlando. Ci chiede un ascoltatore, ministro, via Twitter, Giuseppe, se possiamo chiederle se nel caso l'Ilva non rispettasse le prescrizioni, lei può ipotizzare una revoca dell'AIA? No, stabilito dalla legge, ancora una volta. La legge stabilisce da un lato anche la possibilità della revoca, ma noi nella legge abbiamo anche inserito le sanzioni a carico dell'AIA, fino addirittura alla nomina di una procedura di amministrazione controllata della società. Cioè il sistema di sanzioni che abbiamo previsto è molto rigoroso e molto importante per l'azienda. Sono garanzie che abbiamo inserito all'interno della legge. Ultima domanda che le faccio riguarda la reazione che abbiamo visto ieri da parte delle associazioni ambientaliste, che esprimono dolore per la decisione della Corte Costituzionale e però dicono in sostanza: guardate che tanto l'azienda chiuderà comunque, perché deve affrontare il problema delle bonifiche dei terreni della falda acquifera, attuare l'AIA e non ha presentato un piano industriale, affrontare le richieste di risarcimento dei cittadini e poi i problemi di mercato. Dicono in sostanza è un'azienda di fatto già decotta. Guardi, queste cose le dicono da un po'. Per esempio avevano dato per scontato che l'azienda non avrebbe mai accettato un piano di risanamento ambientale come quello che abbiamo imposto con l'autorizzazione integrata ambientale, invece l'azienda lo ha accettato. Scommettevano che l'azienda non avrebbe mai avviato il piano di risanamento, invece non solo lo ha avviato, ma lo ha avviato in maniera talmente radicale che i risultati delle rilevazioni della qualità dell'aria rese pubbliche due settimane fa dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dimostrano un significativo, addirittura drastico, miglioramento. Io continuo a rimanere sulla posizione che ho avuto fin dall'inizio: lavoriamo sui dati, specchiamo poche parole e confrontiamoci molto sui numeri. E i numeri, nonostante in qualche modo l'impasse che si è creata per le iniziative che sono state assunte dalla magistratura a partire dal novembre scorso e che hanno sicuramente determinato un rallentamento del programma degli interventi di risanamento, nonostante questo gli interventi ci sono stati, gli effetti si vedono, il piano di investimenti dell'azienda è stato presentato, ricordiamoci che l'azienda ha accettato nella sede della trattativa con i sindacati di accedere ai contratti di proprietà invece che alla cassa integrazione. Questi sono fatti, sono dati sui quali bisogna confrontarsi. Se invece si continuano a lanciare per aria suggestioni, ipotesi che non sono riscontrabili, è chiaro che non si fa un bel servizio alla verità. Grazie ministro e buona giornata. Buon lavoro a voi. Buona giornata e buon lavoro. E noi veniamo adesso all'altro tema centrale di questa puntata, dopo appunto l'intervista del ministro Clini sull'Ilva, che riguarda appunto il decreto sui debiti della pubblica amministrazione verso le aziende. Simonetta Rubinato, deputato del Partito Democratico, sindaco di Roncade, buongiorno. Buongiorno a lei. Siamo in provincia di Treviso, Roncade in provincia di Treviso. Alessandro Carretta, presidente della IDEA, l'Accademia Italiana di Economia Aziendale e docente di economia degli intermediari finanziari all'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno Carretta. Buongiorno a voi. Rubinato, inizierei da lei. Abbiamo già accennato qualcosa nell'anteprima e in apertura di questa trasmissione. Insomma, da quel che ho capito, per comuni come il vostro, come il suo, come quello che lei guida, Roncade, che è in regola con i pagamenti verso le aziende e ha i soldi in cassa, questo decreto praticamente è una sanatoria per i cattivi, ossia per tutti gli altri, e non consente a voi di muovere un quattrino per sostenere l'economia, sostenere il disagio sociale, sostenere le imprese. Il punto, uno degli snodi, mi sembra questo, no? Mi pare che l'ha già descritto benissimo lei, superfluo che intervenga io. Allora, io non sono tra quelli che amano, come dire, giocare sempre allo sfascio e dire che tutto non va bene. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno questa volta va visto dal lato delle imprese, pur con tante, come dire, modifiche migliorative del decreto che vanno fatte. Il tema qui è pagare le imprese. Non è tanto il decreto che deve allentare il patto di stabilità per nuovi investimenti per i comuni virtuosi, lo dico come dire, con tristezza e con rammarico, però non per questo dimentico che se le cose vanno fatte bene, anche migliorandole nel passaggio alla Camera, qui ci sono 40 miliardi che vanno al sistema delle imprese, cosa che fino ad oggi tutti, anche i critici, in particolare del centrodestra, tutti i critici appunto di questo decreto legge così come è fatto, peraltro non sono riusciti a fare negli anni in cui erano al governo. Quindi questo è il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo vuoto effettivamente è che per l'ennesima volta, l'ultima è stata quella del decreto sui controlli degli enti locali l'anno scorso, per l'ennesima volta si costituiscono fondi per anticipazioni di liquidità ad enti che hanno non solo assunto impegni senza accantonare, diciamo così, le somme necessarie ai pagamenti, ma come dire, di nuovo possono loro effettivamente pagare debiti, perché qui stiamo parlando comunque di debiti certi, liquidi ed esigibili, possono pagare, se non hanno i soldi vengono praticamente finanziati dallo Stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti con dei prestiti praticamente trentennali, mentre i comuni virtuosi che hanno già pagato le imprese e che vorrebbero un allentamento del patto di stabilità, argomento aperto per il prossimo governo, per aprire nuovi cantieri sui territori, non possono neppure, questa è veramente una beffa, accendere in questo momento, perché i limiti, i paletti dati dalle ultime finanziarie per l'accensione di mutui per fare opere pubbliche sono praticamente proibitivi per la gran parte degli enti locali, pure virtuosi. Mi sembra una questione interessante, Carretta, che va unita anche a una questione fondamentale per quanto riguarda il decreto, perché questo è, come dire, un difetto generale, no? Il fatto, e qua si ritorna al grande tema del patto di stabilità dei comuni, che rischia di diventare una camicia di forza soprattutto per i comuni virtuosi, mentre invece per quanto riguarda il decreto, il Sole 24 Ore di oggi, lo citavamo poco fa, ci ricorda che il decreto avrà bisogno, tra attuativi, contratti, certificazioni, comunicazioni, leggi regionali, di 36 provvedimenti per l'attuazione. Insomma, qualcosa è un po' meno farraginoso, forse si poteva fare. Ma certamente, se seguiamo la metafora del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, dal punto di vista delle imprese e del sistema finanziario, ricordiamoci che le banche e gli intermediari finanziari sono imprese anche loro, il bicchiere non è pieno per metà, diciamo che è pieno forse per un quarto, nel senso che il provvedimento di cui stiamo parlando ha certamente alcuni aspetti positivi, pensiamo al fatto che cerca di indurre le pubbliche amministrazioni a seguire la procedura anche con alcune penalizzazioni, con alcune sanzioni anche a livello di singoli dirigenti. Il decreto prevede anche alcune semplificazioni, elementi di detassazione per la cessione dei crediti, quindi alcuni passi positivi vengono fatti, ma certamente per tre o quattro qua, o diciamo tre quinti o quattro quinti, il bicchiere è vuoto, nel senso che la maggior parte del decreto, forse è inevitabile dal punto di vista tecnica legislativa, ma è dedicata a dove trovare i soldi, agli equilibri di cui si parlava nell'intervento che mi ha preceduto. Lo spazio nel decreto dedicato a come effettivamente far arrivare i soldi alle imprese è decisamente basso, e io credo che rischiamo in questo modo di fare un altro buco nell'acqua, come è stato nel caso della certificazione. Quindi sono piuttosto pessimista su questo fronte, anche pensando ad alcuni aspetti veramente incredibili come i limiti alla compensazione. fra crediti e debiti. Ecco, quello è un altro tema centrale, più volte sottolineato dalle imprese, in particolare dalle piccole. 9 in punto. E ci ha raggiunto anche Gianni Chiodi, presidente della Regione Abruzzo, buongiorno. Buongiorno. E anche commissario alla sanità, insomma, sta attuando il piano di rientro della Regione Abruzzo, che era una delle regioni, insomma, messe peggio appunto dal punto di vista della sanità. Questo decreto, voi avete già sbloccato qualcosa, anzi devo dire una discreta quantità di denaro, se non sbaglio 240 milioni, questo decreto vi consente in realtà di sbloccare qualcosa di più, di sbloccare ulteriori denari? No, io dico questo, intanto il decreto ancora non è applicato e quindi non sappiamo, sulle regioni non dà nessuna possibilità di fatto di pagamento da parte delle regioni, solo i trasferimenti agli enti locali, ma al di là di questo io dico sempre chi fa da sé fa per tre, noi abbiamo sbloccato il 28 marzo 242 milioni di euro a favore delle ASL, della gestione sanitaria, per ridurre ancora i tempi medi di pagamento che sono oggi in Abruzzo inferiori alla media nazionale, ma sono comunque superiori a quelle che sono insomma le norme europee, ma al di là delle norme europee anche un senso di civiltà. E adesso con l'ultima verifica che abbiamo avuto del tavolo di monitoraggio dello Stato sulle situazioni, sui conti abruzzesi, siccome è il terzo anno che l'Abruzzo registra una situazione di equilibrio finanziario, abbiamo ottenuto una premialità di 118 milioni di euro del Fondo Sanitario che appena il Consiglio dei Ministri avrà diciamo erogato alla Regione Abruzzo, noi gireremo immediatamente alle ASL, quindi una dotazione finanziaria molto importante che supera i 350 milioni di euro che abbatteranno senz'altro le fatture, insomma i tempi di pagamento. Tenga conto che però il decreto non ha ancora avuto nessuna efficacia. Io ritengo che per come sia stato costruito le possibilità che produca effetti reali sono molto molto limitate. Molto basse queste possibilità. Ne parlavamo poco fa, Chiodi, insomma ci vogliono 36 atti tra amministrativi, decreti, anche leggi regionali tra l'altro, per portare a compimento questo decreto. Immagino in Parlamento tutto questo verrà cambiato e anche le procedure sono piuttosto complesse. Assolutamente sì. Alcune volte sembra che chi scriva queste leggi sia al di fuori veramente della realtà, alcune volte viene il dubbio che queste fasi procedurali così complesse siano l'artificio attraverso il quale poi insomma si impedisce di fatto che ciò accada in maniera tale da salvaguardare, non so che cosa, ma insomma certamente il rapporto deficit PIL che sia intorno al 2,9%. Non so se questo, per come è stato costruito questo decreto, potrebbe essere un fatto più di comunicazione, cioè il titolo dà un'idea ma poi nella sostanza, però io credo che questo si dovrà cambiare, perché insomma io credo che anche gli imprenditori non si faranno in qualche maniera abbindolare da una situazione di questo genere, né potranno far credere ai loro iscritti o ai loro aderenti di aver fatto un'operazione che poi invece non produce effetti e magari avere semplicemente il no come associazione industriale dire abbiamo fatto la nostra parte. Io credo che in Parlamento si dovrà cambiare, anche perché la fiducia non può essere messa, perché lei capisce bene che se adesso il governo non ti mette la fiducia non gliela danno e di conseguenza credo che ci saranno dei cambiamenti importanti. Rubinato, nel suo ruolo di deputato del Partito Democratico, poi tra l'altro ci chiede qualche ascoltatore via SMS sul doppio incarico, ma magari ci arriveremo verso la fine, di deputato del Partito Democratico e sindaco di Roncade, provincia di Treviso. È pronta a presentare emendamenti sui due fronti, cioè dal lato dei pagamenti e dal lato di un eventuale sforamento per i comuni virtuosi come il suo del patto di stabilità, o ritiene che quella non sia la sede, il decreto, questo decreto non sia la sede? Noi dobbiamo cercare di portarlo fuori dalle, anche dalle secche che sono state appena descritte il più rapidamente possibile, in modo da migliorarlo. E quindi io francamente temo che questa non sarà la sede in cui troveremo anche la risposta sul fronte del patto di stabilità per gli enti virtuosi. La battaglia sarà fatta senz'altro dal Partito Democratico, ma io non mi dimentico, tra l'altro da membro della Commissione Bilancio, che ci sono alcuni paletti deficit ex membro perché ex adesso non c'è, membro, non c'è la Commissione Bilancio, sì, sono tra i parlamentari che chiedono con forza di essere messi in condizione di lavorare, perché francamente è un po' frustrante una situazione come questa, però le proposte emendative le abbiamo comunque, anche se non siamo membri della Commissione Speciale. Quindi il lavoro va senz'altro fatto, lavorando soprattutto sulla materia delle semplificazioni, della possibilità di accelerare sulle restituzioni e rimborsi delle imposte alle imprese, anticipando il più possibile al 2013, in modo da rendere questo provvedimento il più utile possibile nel disegno che è stato tracciato. Poi tutto quello che si può fare di più sul patto di stabilità sarà una nostra battaglia anche del PD. Mi auguro che tutte le forze politiche in Parlamento prendano questo decreto legge come la prima occasione vera, seria, importante per lavorare affinché il Parlamento, come dire, dia un segnale di senso di responsabilità e anche di effettiva utilità all'esterno di quello che insomma il mondo si aspetta, mentre fuori brucia, appunto sembra che il palazzo non se ne accorga, e non è così. Io però vorrei fare una piccola riflessione su, diciamo, forse più di filosofia generale. Da sindaco che poi è stato anche in Parlamento, io mi rendo conto di una contraddizione che va sciolta. Da un lato questi provvedimenti, purtroppo anche sotto, come dire, il quasi commissariamento europeo, per responsabilità del mai governo italiano negli ultimi anni, non solo, ha una lente di lettura in questo momento che è molto ragionieristica, non guarda i risultati ma guarda semplicemente ai paletti dentro i quali si deve stare per rispettare gli impegni assunti in sede comunitaria. Da un lato quindi questo atteggiamento ragionieristico che non proprio burocratico, centralistico, che non ha assolutamente conoscenza di come funzionano le cose nelle pubbliche amministrazioni normali, e dall'altro questa un'iper normativa di controllo che non distingue tra chi fa bene e chi fa male. Io dico sempre come se mettessimo un tutore a tutti gli italiani, non solo a quelli incapaci di amministrare le proprie sostanze. Così è stato fatto anche in questi ultimi anni, aumentando una rete inestricabile di controlli, di verifiche, di procedure a carico di tutti gli enti e di tutte le pubbliche amministrazioni senza distinguere, per poi arrivare ogni volta a coprire a piedi lista i buchi dei non virtuosi. Ma la mia domanda è sempre stata, e chiudo: come il mio ente locale, come dire, esegue i controlli che deve eseguire la Corte dei Conti del Veneto, come dire, ci chiede spiegazioni su quello che facciamo, e ben vengano, perché abbiamo le risposte e mi fa ben pensare che lo faccia con tutti. La domanda è: ma chi era il controllore in questi anni? Lo Stato, la Ragioneria, il MES, le Corti dei Conti regionali? Dove erano per essere arrivati a questo punto? Quindi il tema è non solo risolvere il pregresso, ma costruire un sistema che funzioni per il futuro. Mi sembra corretto come ragionamento. Carretta, tra poco ritorno da lei, perché c'è il tema che ha sollevato poco fa, insomma prima della pausa, ossia la questione della compensazione. La buttiamo là con una battuta di Antonio che ci fa su Twitter: la compensazione tra crediti e debiti è una cosa troppo veloce per essere una soluzione italiana. E poi Equitalia come campa, battuta non male. Ho un paio di colleghi della Rubinato, non parlamentari credo, in linea. Innanzitutto Pierluigi dalla provincia di Grosseto, sindaci intendo. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, mi sembra che qui continuiamo a lei, parlare. Lei è un sindaco, mi scrivono qua, no? Sono un sindaco di Pitigliano, un comune di circa 4.000 abitanti, provincia di Grosseto, eccetera. Ma io ascoltavo la vostra trasmissione e devo dire, sinceramente, mi viene un po' da sorridere. Questo decreto salva i comuni che hanno fatto i debiti, che hanno, non hanno i soldi e poi dovranno pagare, o gli darà lo Stato, sono virtuosi e dovranno pagare, va benissimo. Ma prendiamo i piccoli comuni come il mio, che è entrato nel patto di stabilità. È l'assurdo, è questo che i nostri radioascoltatori devono capire. Noi abbiamo i soldi e questa assurda legge, queste assurde regole ci impediscono di spenderli. Cioè sistemiamo in qualche maniera i debiti dei comuni virtuosi o non virtuosi che hanno fatto, ma la prospettiva è il futuro. No, nessuno lo garantisce, quei piccoli lavori che servirebbero a rimettere in moto l'economia del territorio sono bloccati. Un esempio, e non vi mettete a ridere. Noi abbiamo finito i loculi del cimitero, va bene? Bisogna parlare anche di questo. Fra poco qui non potremo più ospitare le persone, noi qui ci sono parecchi centenari, però giustamente, e io ho i soldi da spendere e non posso spenderli per il patto di stabilità. Ho costruito un asilo nido con i finanziamenti della regione, paradosso, è chiuso perché non posso spendere i soldi che ho per aprirlo. Devo fare il consolidamento del masso tufaceo, perché Pitigliano sorge su un masso tufaceo più bello del mondo. Bene, ho i soldi e ne posso spendere. Ma che legge è questa? Ma che Parlamento è questo? Ma che modo è di affrontare i problemi questi? Poi mi dicono, non hai soldi, aumenta le tasse. Ma a chi le aumento le tasse? Con quale coraggio vado in giro a chiedere le tasse nuove? Ma voglio dire, tutti i nostri ospiti, chi sta in Parlamento o non in Parlamento, ma si rende conto di questa situazione o no? Pierluigi, abbiamo capito benissimo lo sfogo, tra l'altro da Pitigliano, comune meraviglioso, cioè una cittadina meravigliosa. Se vi capita di passare dalla provincia di Grosseto, andateci, così le faccio anche un po' di marketing territoriale. Va Fabio dalla provincia di Brescia, ma è un sindaco anche lei, giuro che non li abbiamo chiamati noi, sono loro che chiamano in diretta. Fabio, buongiorno. Buongiorno, sono assessore al bilancio, non sindaco, del comune di Flero in provincia di Brescia. Sì. Io volevo portare la mia testimonianza. Io ho iniziato a fare l'assessore nel maggio 2011 e per un anno e mezzo, tutto il 2011 e il 2012, ho speso il tempo a saldare fatture pregresse per riuscire il prima possibile ad aver pagato tutte le imprese che avevano lavorato per il mio comune. Leggendo il testo del decreto che è stato approvato, mi sono chiesto se ho sbagliato. Perché se io avessi in realtà accumulato delle fatture non pagando le imprese che hanno lavorato per me, oggi io potrei sbloccare una parte dei 7 milioni di giacenze di cassa in Banca d'Italia che il patto di stabilità non mi permette di spendere. Poi quando ho anche visto come erano i criteri di copertura dei bot, degli interessi sui bot che verranno emessi per far fronte a questo indebitamento, e cioè praticamente c'è una rivalsa sull'IVA e mi pare una serie di tagli lineari che vengono fatte su una serie di spese ministeriali, mi sono domandato come funzioni, in che nazione vivo, dove chi è meritevole, chi opera per cercare di evitare di trasferire i suoi vincoli di bilancio sul sistema delle imprese di fatto viene punito, e chi invece fa i passi più lunghi della gamba e quindi contrae debiti senza essere certo poi di potervi far fronte, invece viene favorito. Tra l'altro l'onorevole Rubinato mi conosce indirettamente via mail, perché con lei ci eravamo scritti al tempo noi stiamo estinguendo anche dei mutui e subiamo in questa attività di estinzione dei mutui, quindi di riduzione del debito pubblico, delle penali al limite dell'usurarietà dalla Cassa Depositi e Prestiti, e anche questo è un comportamento che pare del tutto irrazionale, cioè, sì. Sembra che chi operi per evitare di far aumentare il debito sbagli, e invece chi opera in senso contrario viene riconosciuto. 9 in punto. Mancano pochi minuti, voglio fare un ultimo giro, breve, prima con Carretta, poi con Chiodi e poi con Rubinato. Carretta, non posso a questo punto, oltre che chiederle sulla compensazione tra debiti e crediti, che tra crediti e debiti, meglio, che anche là sono un po' debole, non posso che chiederle qualcosa anche su queste telefonate che ci arrivano e che rispecchiano quello che ci diceva Rubinato. Carretta, prego. La compensazione certamente è un buon meccanismo e dovrebbero essere eliminati i vincoli sia di natura temporale sia legati all'importo. È un meccanismo rapido che può funzionare una volta che si è appurato che il credito è certo, liquido ed esigibile, quindi può essere compensato. In realtà lei prima faceva riferimento e citava con una battuta Equitalia. Ci vorrebbe un'Equitalia, ce ne vorrebbero due, una per quello che già fa e una per riuscire a riscuotere i crediti che le imprese vantano verso la pubblica amministrazione, perché così non ne usciamo, è impossibile uscirne, i limiti sono già stati evidenziati negli altri interventi, occorre un soggetto esistente in qualche modo liquidatore. Stiamo parlando di una procedura concorsuale, perché di fatto stiamo liquidando dei debiti anche con delle gerarchie assolutamente discutibili, perché mettere in fondo a questa lista di creditori le banche e gli intermediari finanziari ha sicuramente dei profili di incostituzionalità che emergeranno certamente in sede poi di messa in sicurezza del decreto, ed è fuori da ogni norma, perché le banche sono imprese, finanziano le imprese, e se noi non rimborsiamo alle banche i crediti che hanno acquistato della PA rischiamo di interrompere anche il ciclo di capitale circolante delle imprese. Chiarissimo. Gianni Chiodi, in un minuto, su questa questione del patto di stabilità che sta progressivamente diventando centrale. Io credo che la protesta dei sindaci da questo lato salirà, insomma, dicono qua state di fatto facendo una sanatoria verso chi, o un condono verso chi insomma non è stato regolare, non si è comportato bene. Ha un fondamento, tenga conto che per quanto ci riguarda non è così, come dicevo, noi abbiamo anticipato gli effetti in Abruzzo con la liquidità nostra. Il problema qui è che la litania, che pure è giustificata sotto certi punti di vista, prescinde da una considerazione. Questo paese nel corso dei decenni ha messo la propria testa dentro un cappio, e questo cappio adesso si sta stringendo. Il problema è conciliare queste esigenze, che altrimenti apparirebbero delle inutili vessazioni da parte dello Stato nei confronti degli enti locali, nei confronti del sistema, con quella che invece adesso è un'esigenza che noi abbiamo di dover salvaguardare le nostre finanze pubbliche, altrimenti il rischio è una sorta di default. Allora la difficoltà è in questo, cioè nessuno, io mi rendo conto della posizione dei sindaci così come anche delle regioni, ma nel momento in cui prendiamo atto del fatto che un paese che ha distribuito risorse a destra manca, risorse che non c'erano, creando un debito spaventoso, oggi questa è una generazione che è costretta in qualche modo ad affrontarlo. Ultima domanda per Rubinato, domanda politica però in questo caso, perché mi sembra di aver colto prima che lei è a favore della partenza delle commissioni permanenti, insomma, così come chiede il Movimento 5 Stelle, da deputata in questo caso e non da sindaco. Ma guardi, ieri abbiamo avuto un incontro del gruppo dei deputati del PD che proseguirà oggi alle 15, in cui in tantissimi abbiamo chiesto di essere messi, di trovare una formula per essere messi in condizione di lavorare nelle commissioni. Anche smascherando la strumentale posizione di 5 Stelle, sappiamo benissimo che una dinamica, una fisiologia normale delle commissioni parlamentari chiede che ci sia un governo e una dialettica tra maggioranza e minoranza, se no le commissioni in realtà si trovano, approfondiscono i problemi ma non approvano delle norme alla fine. Quindi il problema vero è che noi vogliamo essere messi nelle condizioni di lavorare senza prestare fianco a queste strumentalizzazioni, ma il tema vero è che senza un governo il funzionamento è comunque solo apparente. 20, in 10 secondi, commissioni sì o no? Molto brutalmente, Rubinato. Io dico sì assolutamente, anziché la commissione speciale, sicuramente le commissioni deputate anche per seguire questo provvedimento, anche se in questo momento la conferenza dei capigruppo ha fatto una scelta diversa. Posso fare una battuta finale? Brevissima. Allora, il problema, uno dei problemi è che noi dobbiamo fare i conti con la situazione. Devo chiudere, Rubinato, devo chiudere, se no mi tolgono la linea. Grazie a tutti e buona giornata. Ricordati! Mancano 82 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.